siamo stati un popolo di emigrati, noi siamo stati sì un popolo di emigrati, ma siamo stati soprattutto una nazione di colonizzatori. Fin dall'infanzia dell'Italia nell'Ottocento siamo stati un popolo di colonizzatori e di devastatori, e abbiamo proprio iniziato con il Corno d'Africa. Queste persone che vengono qui oggi sono state perseguitate fino ad allora, e perseguitate poi quando questi qui saranno i nipotini, i pronipotini della faccetta nera, no? Se lo ricordiamo un po' tutti, la canzone fascista, faccetta nera. Ecco, questi qui stanno venendo qui da noi oggi, perché abbiamo e continuiamo a devastare. Sappiamo l'episodio di Tagliarsi, che voleva dire le cose come stavano andando nel Corno d'Africa, che noi stiamo devastando tutte le loro proprietà, tutto quello che hanno per poter vivere. Quindi non dobbiamo parlare di lotta tra poveri. Stiamo parlando, queste persone sono persone che vengono a prendere ciò che gli è stato tolto. Neanche vengono a prenderlo, no, vengono a chiederlo. Perché magari venissero, dice, mo ce lo riprendiamo, vuol dire che hanno preso coscienza che noi l'abbiamo derubati e rivogliono indietro il mal tolto. No, questi vengono qua umilmente a chiedere di soccorso. Questi di Piazza Indipendenza sono tutti rifugiati politici non dichiarati dallo Stato italiano, dichiarati dall'ONU come rifugiati politici. Noi, l'Eritrea e i Somali, queste etnie devono essere rifugiati politici perché i loro stati non esistono più, perché sono stati devastati dalla colonizzazione, e noi le trattiamo in quel modo, spacchiamole le braccia, tiriamo alle 6 di mattina svegliare donne e bambini sotto, che dormivano da 3 giorni, 4 giorni sotto per strada, svegliarli con gli idranti. Insomma, noi siamo veramente abbiamo toccato il fondo, siamo andati oltre. Guarda, io non parlo più di buonismo, noi dobbiamo parlare di odio di classe. Bisogna manifestare il nostro odio di classe, Gavino. Il buonismo non serve proprio a nessuno, è proprio l'odio di classe che ci deve essere. E poi non mi dicono buonista, io ho tanto una merda nelle mani, sapessi quando vorrebbe una altro che buonista, io. Se noi non prendiamo coscienza di questo, le cose andranno sempre peggio, insomma, ecco quello che si vede, perché si sta vedendo, no? Noi ormai Salvini è diventato il più moderato del carrozzone della politica italiana, perché le sparano più grosse l'altri dei Salvini. Sì, sì, io ne ho sentito di ben peggio alla radio oggi, questa mattina, addirittura gente che dice che le sinistre estreme romane stanno fomentando il malcontento tra queste popolazioni per prendere evidenza. Perché hanno perso ogni evidenza di fronte alla gente, allora stanno facendo questo. Non si tratta assolutamente di questo, né di questo né di buonismo. Si tratta proprio che queste persone qui hanno capito che qui da noi, che noi siamo stati i loro devastatori, e qui da noi sono tornati. E non è neanche un'emergenza, dovevamo aspettarcela questa cosa. Ma qui, per quello che sta avvenendo, ci stanno comprando tutte le terre di tutta l'Africa, no? Gli stiamo rapinando tutte le risorse. Quello che ci serve non è che andiamo là e lo chiediamo, andiamo e ce lo prendiamo, o con le buone o con le cattive, utilizzando i bombardamenti e via dicendo. Poi ci aspettiamo che ognuno a casa loro, ecco, aiutiamolo a casa loro, aiutiamolo a casa loro, basta gli ridiamo quello che noi ci siamo già presi, gli restituivo quello che noi avevamo rubato, e quelle aiuterebbero loro a noi, perché se noi ritorniamo indietro le risorse, il nostro benessere viene a scapito di quelli. Se noi lo restituiamo, loro sarebbero molto molto meglio, che sarebbero in grado loro a darci una mano a noi, e li aiuteremmo a casa loro, come dice Salvini, no? Li aiuteremmo a casa loro se gli restituiressimo, se gli restituiremmo la casa, loro sarebbero felici. Ecco, questa cosa qui, perché proprio stiamo rapinando completamente l'Africa con le multinazionali che portano targa italiana. diciamo questo, con le multinazionali che portano targhe italiane. Però possiamo dire un pochettino a consolazione anche del rodimento, che questa popolazione eritrea e somala che hanno resistito 5 giorni eroicamente a Piazza Indipendenza, in quel modo, passivamente, senza violenza, hanno subito per 5 giorni ogni forma d'arroganza, ci hanno dato una lezione di dignità. Dobbiamo dirlo, che quelli ci hanno dato dignità, quelli ci hanno dato dignità a noi, diciamo, di lottatori di sinistra, questi più antagonisti. In quel modo si lotta. Sono stati là, hanno subito ogni soppluso, fino al punto che ormai la partita se la devono giocare, perché il giochetto non gli è riuscito. Adesso cominciano l'accusa, la colpa del questore, la colpa del sindaco, capito? Se stanno accusando fra di loro per un atto criminale che hanno cominciato facendo dei sgomberi abitativi a Cinecittà, Quinta Valle, anche lì ci sono sia italiani che lavoratori migranti, non erano rifugiati politici, ma erano gente con permesso, gente che c'ha il diritto, un bisogno abitativo. Beh, pure là l'hanno preso e buttato per strada senza nessuna soluzione. Diciamo che gli stanno da asilo politico sotto l'androne della chiesa a Piazza Sant'Apostoli, e stanno lì dal 10 di agosto e senza nessuna intervento, nessuno si muove, neanche ne parlano i giornali. Il fatto non sussiste perché nessuno lo racconta, eppure oggi in piazza ci sono quella gente che sta manifestando. Voglio sentire proprio cosa diranno di questo. E soprattutto dobbiamo imparare anche da loro, perché loro hanno dimostrato di saper lottare, e impariamo anche da loro, soprattutto questo. Bene, ti ringrazio. Niente, buona continuazione a tutti. Ciao, grazie, Ettore, ciao.